Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Siamo ormai alla vigilia del fine settimana che potrebbe decidere in maniera quasi definitiva la lotta per lo scudetto. Collina ha designato gli arbitri delle due partitissime. Per domani sera a Inter-Juventus a San Siro tocca ad Amato di Barletta. Domenica alle 18.30 a Roma, Lazio-Roma sarà diretta da Tagliavento di Terni. L'elenco completo delle partite di questo fine settimana: Atalanta-Fiorentina con arbitro Romeo, Bari-Napoli affidata a Bergonzi, Cagliari-Palermo-Rocchi, Catania-Siena-Gava, Chievo-Livorno sabato alle 18 Rosetti di Torino, Inter-Juventus, ripeto, D'Amato di Barletta, Lazio-Roma-Tagliavento di Terni, Parma-Genoa-Banti, Sampdoria-Milan-Rizzoli di Bologna e Udinese-Bologna-Morganti di Ascoli Piceno. Questo elenco completo degli arbitri designati. Nel frattempo il Barcellona ha continuato implacabile la sua marcia nel campionato spagnolo, ha rifilato un 3-0 molto secco al Deportivo La Coruña, facendo anche riposare un certo numero di titolari, a parte gli infortunati Ibrahimovic, Abidal e questi, e Iniesta che è perso per tutto questo finale di stagione. Un passo decisivo probabilmente lo ha compiuto il Marsiglia di Didier Deschamps, che ha vinto il suo recupero con il Sochaux, mentre l'altro recupero che riguardava il Bordeaux ha visto la sconfitta ancora una volta della squadra di Blanc Alemán, e a questo punto il Bordeaux, campione uscente, è praticamente fuori dai giochi. Notizia molto curiosa che arriva, ma curiosa poi fino a un certo punto, che arriva da Vicenza. Dunque, pensate che il Vicenza, dopo la sconfitta contro il Mantova del 27 marzo, aveva esonerato l'allenatore Maran e aveva affidato la panchina al decano Nedo Sonetti. Benissimo, stamane Maran è stato richiamato per la serie poche idee ma confuse, è stato richiamato sulla panchina dopo tre sole partite di Sonetti, che si sono risolte in due pareggi casalinghi contro Modena e Ancona e la sconfitta 0-4 a Grosseto. Il bello è questo però, che informa l'ANSA, già nella stagione 2004-2005 la società guidata dal presidente Cassingena sostituì il tecnico Viscidi con Bellotto, per poi richiamarlo sempre dopo tre giornate. Alla fine di quella stagione Vicenza perse lo spareggio play-out con la Triestina, finì regolarmente in Serie C1, ma poi fu ripescato per il fallimento di altre società. Per dire come la storia e l'esperienza insegnino, no? Come ci si comporta in questi casi. Poi c'è una bella, ricca intervista di Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport, in cui si dice deluso dalla Juve, assicura che resterà sulla panchina in Inghilterra fino a fine contratto, cioè fino al 2012, e poi spende parole straordinarie per la Roma, e dice è certamente la squadra che merita l'Oscar dell'anno, perché era assolutamente impensabile che potesse recuperare quando aveva 14 punti di svantaggio. La squadra ci ha creduto, è sempre stata buona e Ranieri si è assolutamente superato. Fin qui le notizie di routine, tutto sommato. Poi quella di cui davvero avremmo fatto a meno stamane è quella della scomparsa di Raimondo Vianello, la cui contiguità al mondo dello sport, era dello sport in generale, del calcio in particolare, era molto forte. Io comincerei con un ricordo affidato all'attuale presentatore della Domenica Sportiva, Massimo De Luca, che con lui ha lavorato a lungo a Mediaset. Sentiamo De Luca. Raimondo Vianello è stato un compagno di strada eccezionale, perché ha accompagnato un po' tutti i miei anni personali di una lunga esperienza televisiva a Mediaset, ma non è questo quello che conta. Quello che è doveroso in questo momento riconoscergli, perché so, avendolo frequentato, quanto ci tenesse, è che Raimondo Vianello è stato il primo davvero a sdrammatizzare le tensioni del commento sportivo. È un termine ormai abusato, ma quando nel 91-92 lui prese in mano la conduzione di Pressing, fu davvero il primo a utilizzare nei confronti di un mondo del calcio già allora troppo ricco di tensioni quel tono distaccato, quell'ironia, quell'eleganza che gli erano proprie, per impostare un racconto diverso. So quanto ci tenesse, perché negli anni poi questa sorta di primato è stato invece attribuito ad altri, ed è giusto invece riconoscere che fosse stato il suo. Raimondo è stato un compagno straordinario, col quale vedere le partite significava, da un lato sì, seguire gli incontri, dall'altro viaggiare tra un episodio relativo a quando lui era attore giovane nella compagnia di Anna Magnani, o a quando faceva gli scherzi a scuola a Vittorio Gassman, o quando incontrava Ciampi e scherzavano entrambi sull'età. L'ex presidente ha 2 anni di più del nostro caro Raimondo. È un'esperienza straordinaria, perché unico era il personaggio. Vianello, in qualche maniera l'ho conosciuto e frequentato anch'io verso la fine degli anni Ottanta. Ho partecipato a 2 o 3 programmi presentati da lui, in cui soprattutto inizio stagione, quando c'era da iniziare, quando stava per iniziare il campionato, e lo ricordo curioso, attentissimo, sempre tutto giocato sul filo di questa straordinaria e ricchissima ironia sua, tutta particolare, però diventava molto serio quando si parlava di calcio, invece, perché adesso di anni andava per 88, ma fino a una 20 anni fa, cioè in età non matura ma tardissima, lui comunque si piccava di fare ancora parte di questa squadra di amici suoi, in cui non era soltanto il veterano, era il super veterano, in cui ovviamente si muoveva a fatica, ma secondo lui, invece, presentata da lui, era un calo di dinamismo che lo prendeva ogni tanto, ma che gli consentiva ancora di togliersi qualche soddisfazione. Le sue vacanze, tutte le sue giornate, le sue settimane erano cadenzate sugli appuntamenti sportivi televisivi, prendeva le vacanze, le calibrava sulle Olimpiadi piuttosto che sui mondiali o sugli europei, per la disperazione di sua moglie Sandra. È stato un personaggio, io credo, irripetibile, tra l'altro uno dei pochi veri fuoriclasse della storia della televisione italiana. Beh, ci sono dei messaggi interessanti oggi, questo proprio non ve lo risparmio. Flavio Carminati, che però è bello perché firma con nome e cognome, scrive da Bergamo: lunedì lei ha fatto i complimenti ad Albertosi, forse dimenticando che è stato in galera per scommesse. Lei è un incoerente, si vergogni, incapace, giusto per finire. Dunque, caro Flavio, io ho fatto i complimenti ad Albertosi perché ha avuto un infarto 5-6 anni fa, e averlo visto all'improvviso in televisione sbucare tra gli ex cagliaritani per festeggiare il quarantennale dello scudetto mi ha fatto un effetto particolare. Quindi l'ho salutato, celebrato, festeggiato, se crede, nella veste di portiere scudetto del Cagliari. Ha avuto in seguito delle disavventure, le ha regolarmente pagate con debita squalifica, quindi il suo debito con la giustizia sportiva lo ha pagato. Mi risulta che questo paese sia pieno di gente che debiti con la giustizia sportiva, ma anche con quella ordinaria, non li ha pagati e non li pagherà mai, e quindi, se permette, io saluto il vecchio amico, no, per una parola troppo grossa, ma il vecchio sodale, no, di questo mondo, Ricky Albertosi. Perché continuate a dire chi sono gli arbitri scelti per le partite? Perché sono appena usciti, gli ha dati l'ANSA. Un altro dice: ci facciamo belli dicendo che in Inghilterra non sanno neanche chi arbitra, mentre noi apriamo le trasmissioni, scrive David da Verona. Difatti, magari fossimo in Inghilterra, in cui davvero nemmeno la domenica sera sanno chi sono, qua invece c'è una certa curiosità e domanda, e mi sembra che queste due designazioni, tra l'altro, siano state sulla carta felici, perché D'Amato è uno degli arbitri più in forma dell'intera stagione, gli è stata affidata Inter-Juventus, e perché Tagliavento credo sia il numero uno in Italia in questo momento. Domenica scorsa ha diretto benissimo una partita difficile come Sampdoria-Genova, e ha domato a gioco lungo gli ardori eccessivi di, diciamo, pure i genovani, che l'avevano messa in una certa maniera fin dall'inizio. Dato che Lazio-Roma è un altro derby e non si preannuncia particolarmente più tenero, credo che questa sia stata una scelta forse obbligata, ma certamente una buona scelta. Stefano ha chiamato dalla provincia di Imperia, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Innanzitutto la ringrazio per la possibilità di parlare. Uh-huh. Le volevo dire una cosa senza nessun astio: io sono un tifoso dell'Inter, ma lo cerco di dire in maniera più equilibrata possibile. Uh-huh. Allora, innanzitutto volevo dire, per quanto riguarda Calciopoli, che, come ha detto anche qualcun altro, che tifoso della Juventus, al massimo un ladro più due ladri, cioè più un altro ladro fa 2 ladri, non fa 0 ladri. Visto che è curioso che in Italia se uno fa una cosa se lo fanno tutti, poi non è più reato. Poi le leggerò una dichiarazione di Zeman che più o meno arieggia questo concetto, ma è molto molto più elegante ed è più pregnante soprattutto. Vabbè, magari lui gli riesce meglio, ecco. Mm-hmm. E poi volevo dire un'altra cosa. Volevo dire, vogliamo veramente rifare il processo di Calciopoli? Io sono, da tifoso dell'Inter, lo ripeto, sono disponibile anche a riaprire tutte le carte. Però visti i documenti e visto quelli che tutto nel mondo del calcio sapevano, facciamo partire l'Inter dalla Serie B o anche dalla Serie C, la Juventus però la facciamo partire dai dilettanti, secondo la proporzione delle accuse e di quello che è stato provato. Volevo chiedere a lei, che è una persona equilibrata, cosa ne pensava. Guardi, io penso di leggere la mail di un ascoltatore che ho molto molto apprezzato stamane, che è questa. Si chiama Francesco Villabruna e ha scritto: volevo scriverle già nei giorni scorsi per citarle lo splendido intervento di Saviano su Lionel Messi, nel caso non l'avesse visto, e poi ricordare anche Edmondo Berselli, di cui molto avevo apprezzato il più mancino dei tiri e altri commenti sul calcio. Poi avevo soprasseduto, ero stato preso da altre cose. Oggi penso a Vianello, che ha riempito la mia infanzia e quei sabati sera aperti a tutti, in cui si poteva andare a dormire più tardi. E penso anche a come più recentemente aveva affrontato il mondo del calcio, sempre con ironia, intelligenza e leggerezza. Insomma, quello che si dovrebbe fare in modo assolutamente naturale, perché in fondo parliamo di un gioco, seppure meraviglioso. Questo ha scritto Francesco Villabruna. Caro ascoltatore da Imperia, se le sembra che la risposta non c'entri, diciamo che era perfettamente voluta la cosa. Gerry ha chiamato dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, sì, sono interista, ma sono pienamente d'accordo con questa ultima mail che ho appena letto. Basta con tutte queste storie, Calciopoli contro Calciopoli. Secondo me, vorrei ricordare il signor Vianello, che ho visto 5 anni fa qui vicino a casa mia, a Milano 2, che era luglio, c'era un caldo pazzesco e lui faceva la sua partitella con i suoi amici. Certo. Non correva troppo, ma dopo la partitella l'ho avvicinato per salutarlo, è stato gentilissimo, cordialissimo e pacato come al solito. Quindi un signore veramente. Un atteggiamento. Grazie di questa testimonianza, di questo racconto. Un signore signore in assoluto come persona, è un fuoriclasse come uomo di spettacolo e di TV. Poi ci sono altri ambiti, è già stato fatto a Radio 24 e verrà fatto anche poi successivamente, ma può darsi che per ragioni anagrafiche pochi possano ricordare il capolavoro storico assoluto suo e di Vianello, che fu un 2-3 verso la fine degli anni 50, quando davvero furono gli esordi, credo, della satira vera, televisiva di sicuro, ma forse in assoluto, nel nostro paese del dopoguerra. E credo che ancora oggi quelle gag in bianco e nero circolino da qualche parte, ma insomma, quando Vianello e Tognazzi infierirono su Gronchi, che alla Scala, cercando di sedersi regalmente alla maniera di De Gaulle, che si era appena seduto su una poltrona inquadrato nel palco d'onore, e rifecero quello che era accaduto, cioè che Gronchi, per imitare De Gaulle, era scivolato dalla poltrona. E quindi quando Tognazzi si catapultò dopo che Vianello invece si era regalmente seduto alla De Gaulle, si fermò l'Italia, e si fermò anche un 2-3 per la verità, perché dal numero dopo lo chiusero, giusto per dire che insomma anche allora non è che la satira fosse grelitissima. Alessandro ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Innanzitutto anche da parte mia un ricordo al signor Vianello, fuori classe in tutto. Mm-hmm. Nella satira, nello sport, veramente un bel personaggio, ce ne stanno di meno. Per quello che riguarda il discorso prima che lei accennava, il discorso degli arbitri, io chiamo da Roma, sono un tifoso della Roma, e qui vi dico che sta succedendo un cancan per la designazione di Tagliavento, chiaramente da parte laziale, perché con noi c'ha, diciamo, una striscia positiva di risultati, ma non, se lei magari mi aiuta, se ricorda qualche aiuto a nostro favore nelle ultime partite da parte di Tagliavento, io non me ne ricordo. Non entro nemmeno nel merito, Alessandro, nel modo più assoluto, anzi dovevo prima, grazie all'intervento, mi spiace che se una parte prende male questa designazione. Io credo che non ci siano dubbi sul fatto che oggi Tagliavento sia un arbitro in grande forma, in ottime condizioni, poi si spera sempre che duri anche domenica. Ma dato che di arbitri si fa sempre in tempo dopo poi a parlarne male, cioè almeno prima proviamo a proviamo a far affidarci, no? come si dice, credo, da quelle parti. Ezio Martinelli, ascoltatore di Modena, mi ha girato una dichiarazione di Zeman che sinceramente mi era sfuggita e che io trovo una polaroid di quello che che è accaduto in questi giorni a Napoli e dintorni. Ha detto Zeman: gli imputati attuali nel processo di Napoli erano i padroni del sistema Calciopoli, mentre gli altri hanno cercato di difendersi commettendo tuttavia degli errori. Calciopoli era una cosa, un sistema dominante guidato dagli imputati attuali di Napoli. Gli altri hanno cercato di difendersi, ma lo hanno fatto in modo sbagliato. Io al momento non avevo ancora letto una sintesi così felice di quello che è emerso in questi ultimi sviluppi. Luca, chiamato da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. A me sfugge qualcosa, probabilmente, ed è se c'erano e ci sono e ci saranno forse tutti questi favori da parte degli arbitri verso qualcuno, ma il corrispettivo qual era? Ora, se io faccio un favore a lei, dottore, qualcosa in cambio devo avere. Qual era il favore, cioè qual era il compenso pattuito per il favore che non lo so, io non faccio questa domanda a me, la rivolga direttamente ai giudici, però insomma, così cito a memoria, c'erano delle polizze, mi pare, no, che l'agenzia assicurativa di Bergamo aveva contratto con Giraudo e Moggi, se non sbaglio. Questa era una, per esempio. Però non è saltato fuori niente di questa roba qua. Non è sportivo, questo è penale. Ma lo scontro sulla Maserati di uno dei due designatori, no? Non sono così alla luce di tutti. Se uno legge bene fra le righe delle cronache, mi legge molto molto poco. C'era stata la storia dei Rolex, c'era stato forse qualcos'altro. Adesso oggi sulla Gazzetta c'è scritto che era il panettone. Io, un prosciutto, scusi, mi sembra leggermente... Mi sembra poco, sinceramente. Deve saltare fuori qualcosa in più se tutto è vero, credo. No. La seconda cosa, che è più calcistica. Non si disturbi. Non si disturbi, no. Perché deve saltare fuori qualcosa in più. Certo. Se no è tutto teoria, è tutta un'invenzione, è tutta una calunnia, è la montatura contro quel povero uomo. Ho sempre avuto il sospetto. No, io sono, guarda che io sto dicendo la che seconda... deve saltare fuori di più. La seconda... Deve saltare fuori di più, perché i signori arbitri, se facevano queste, se si sottoponevano a queste pressioni, devono per forza di cosa aver ricevuto dei compensi. Ma quindi in qualche modo. Non è detto che fossero dei compensi. Luca, o arriva velocemente alla seconda, o se no abbiamo Matteo. Arrivo velocemente alla seconda. Il Milan ha vinto la Coppa Italia a primavera. Sì. Ci sono dei giovani nel Milan, nella Juve, nelle altre squadre, che secondo me meriterebbero delle chance obbligatorie in prima squadra. Sarebbe il modo. Sono d'accordo con lei, c'è una cosa che non capisco: perché non partire da un argomento serio anziché dai miasmi delle consuete fogne che da 4 anni circa stanno venendo fuori? È questo che continuo a non capire da parte di tanta gente, no? Nel senso che i diritti della difesa, i diritti di chi per l'appunto sta cercando di non dico rifarsi una verginità che è dura, ma insomma di tirare giù più gente possibile per dimostrare che così facevano tutti, anche se mi sembra che si stiano pur dimostrando qualcosina, si stiano nella sostanza continuando a stringere la corda di un tempo. Questa è la mia sensazione, perlomeno. Non capisco perché questo debba avere la precedenza su tutto a prescindere, no? Anche su un argomento invece più interessante, quale quello che poi lei ha introdotto in un secondo tempo. Ci riproviamo dopo l'intervallo, ma dopo soprattutto che avremo ascoltato l'intervento di Marco Bellinazzo, perché si è scritto nei giorni scorsi che l'Italia si è avvicinata a nuovi stadi e quindi alla possibilità di organizzare davvero, ospitare davvero gli europei del 2016. Si è scritto, ma se si va a leggere sul serio, e ce lo spiegherà Marco Bellinazzo, le ultime speranze di da un lato di ospitare quell'evento e quindi prima ancora di avere degli stadi un po' più civili, se ne sta andando in maniera definitiva. Sono ancora più fitti del solito oggi i messaggi in arrivo. Sbaglio, per esempio scrive Roberto da Lodi, se dico che oltre a tutti i meriti Vianello era anche uno dei pochi che per farci sorridere non è mai stato volgare. No, non solo non sbaglia, ma c'entra una delle qualità assolute di Raimondo Vianello, la cui classe era tale per l'appunto che non ha mai avuto bisogno in carriera, dicesi mai, di un, non solo di una volgarità, ma nemmeno di un lontano doppio senso. Lei faccia un piccolo parallelo con quelli che infestano oggi gli schermi e i teleschermi, o fanno i cinepanettoni, e poi faccia lei due righe di conti, insomma, per capire perché Vianello era così amato da tutti e apprezzato da chi ancora, insomma, riesce a distinguere tra i diversi generi di comicità e di humor. Bentornato a Marco Bellinazzo. Buon pomeriggio. Dunque Marco, io ho detto prima, spero di non aver sbagliato, perché in questi giorni sono costretto a letture più fetide, no? Come ti puoi immaginare, per stare un po' agganciato all'attualità, ma mi pare di... io ho detto una roba di questo genere, che in questi giorni si è scritto che l'Italia, tramite una mossa, insomma tramite l'appoggio ufficiale del governo alla candidatura eccetera eccetera, si è avvicinata agli europei del 2016. Questo si è scritto, ma se si vuol leggere, se si vuol leggere la verità, la sensazione invece è che si stia ulteriormente allontanando. Allora, posso aver detto una cosa giusta o una fesseria? Aver ricavato un'impressione esatta oppure no? Rinquadraci il problema. Premesso che ci auguriamo tutti che la candidatura italiana venga premiata il 28 maggio a Ginevra, la situazione si sta mettendo abbastanza male. Si sta mettendo male perché all'Italia è stata chiesta, a questo punto in maniera ufficiale, quella legge sugli stadi che giace alla Camera dallo scorso ottobre, una legge che per esempio la Francia ha già approvato e che in Italia invece difficilmente verrà approvata, al di là delle dichiarazioni del sottosegretario Crimi. Quindi questo è il punto, cioè la tempistica dunque. Purtroppo il 6 maggio i giochi saranno fatti, entro il 6 maggio dovranno essere chiusi i dossier relativi alle candidature. Appunto è stata chiesta all'Italia questa legge è stata approvata al Senato ad ottobre con un voto bipartisan, ma in questi mesi le critiche del mondo politico, in questo caso altrettanto in maniera diciamo bipartisan a questa legge, sono state numerose, soprattutto perché si teme che l'eccessiva liberalizzazione che questa legge apporta alle procedure per la costruzione di nuovi stadi o per la ristrutturazione di nuovi stadi siano tali da permettere possibili speculazioni edilizie. Per questo si è detto che questa legge va corretta, ma anche se si arrivasse a approvare rapidamente in commissione il testo alla Camera, l'eventuale correzione vorrebbe dire un ulteriore passaggio a Montecitorio, e evidentemente, siccome siamo a metà aprile, entro il 6 maggio si fa, a meno che non si realizzi un miracolo vero, però legislativo, insomma è molto difficile che entro il 6 maggio la legge ci sia, e a questo punto la candidatura italiana diventa molto più debole. Certo, cioè tu arrivi, in altre parole, se non sbaglio il 26 maggio, il giorno della decisione, o tu entro il 5, però tu ci stai dicendo che ormai è tecnicamente impossibile, o praticamente impossibile. Molto difficile. O il 26 maggio l'Italia arriva armata, nel senso migliore dell'espressione, anzi la cancello perché è comunque infelice. O l'Italia arriva con questo dossier rafforzato dalla legge sugli stadi, oppure è disarmata, mettiamola così, rispetto alla concorrenza. E non si dica poi allora che che Platini ha favorito la Francia, oppure che cos'è l'alternativa? La Turchia, mi pare. O che la Turchia oggi è la nazione di moda e che quindi va aiutata la Turchia. No, è che questi avranno fatto le cose che dovevano fare e l'Italia no. Mettiamola in questi termini, entro il 6 maggio, quando si chiuderà il dossier, l'Italia dovrà presentare i propri strumenti definitivi. Al momento l'Italia ha previsto spese per 745 milioni per costruire o ristrutturare 12 stadi, con gli impegni del comune, l'impegno anche formale del governo, ma per la UEFA non basta, ci vuole una legge. La Francia ha fatto questa legge, ha stanziato soldi veri, 150 milioni, questo potrebbe essere sicuramente un vantaggio, perché c'è un impegno legislativo da parte del governo di Parigi, e quindi l'appoggio o meno di Platini, insomma, potrebbe essere anche secondario rispetto a questo, a questo quadro. Certo, un altro argomento che è il seguente. Abbiamo letto nei giorni scorsi delle disavventure del Liverpool, del fatto che la sua crisi economica, finanziaria è probabilmente irreversibile, c'è un mandato a vendere la società ad un prezzo minimo, c'è una stima che lo quota circa la metà del Manchester United. E questo da una parte. Dall'altra abbiamo letto anche che, grazie alla rimonta in campionato, la Roma è schizzata all'insù anche nel valore borsistico. E allora tu ieri, facendomi una sintesi e preparando insomma questo intervento, mi hai posto il problema in un modo che giro agli ascoltatori, perché mi è sembrato molto, molto interessante, molto non solo divertente ma davvero significativo. Cioè, nel calcio i soldi servono per vincere oppure vincere serve a far quattrini? Com'è questa storia? Beh, la vicenda di Liverpool e Roma è molto significativa, e tra l'altro si sono intrecciate la scorsa estate, insomma, con la cessione di Aquilani dalla Roma al Liverpool, certo. Che se vuoi è significativa, no? Rispetto a un tentativo di ristrutturare una situazione debitoria da parte della Roma, e viceversa del tentativo di continuare a spendere, di vincere da parte del Liverpool. La sintesi, a mio avviso, è che oggi per competere a certi livelli bisogna spendere, ma se poi non si vince, restare a certi livelli diventa impossibile, a meno che se non abbia alle spalle un magnate come Abramovic, che qualche settimana fa, per ripianare i debiti del Chelsea, ha staccato per esempio un assegno da 500 milioni di sterline. Ma non tutti possono farlo, tant'è vero che le proprietà americane, sia di Liverpool che di Manchester, stanno cercando di vendere le squadre, sì. E stentano a trovare un acquirente in questa fase. Credo anch'io che sia inevitabile, no Marco? Viste le somme, no? Esattamente. Peraltro, appunto, guardando ai fatti di casa nostra, quello che è il tentativo di salvare la proprietà Sensi rispetto alla possibilità, appunto, di vincere lo scudetto da parte della Roma, che avrà ovviamente dei vantaggi anche dal punto di vista economico, c'è, a mio avviso, da fare qualche distinzione, qualche chiarimento, proprio perché se da un lato c'è una situazione debitoria che riguarda la proprietà e non certo la Roma, e quindi l'eventuale vittoria dello scudetto, con tutto quello che comporterà in termini di maggiori introiti, di maggiori sponsorizzazioni, di diritti televisivi, di premi Champions, e quindi questo consentirà alla Roma di spendere un po' sul mercato e di rinforzarsi. Resta distinta la questione invece della proprietà Sensi, della compagnia Ital Petroli, che si risolverà peraltro poco dopo la fine del campionato, insomma, quindi certo. Unicredit dovrà decidere come gestire il proprio credito nei confronti della compagnia Ital Petroli, con riflessi che sicuramente ci potranno essere sulla proprietà della Roma. Ma certamente la vittoria eventuale del campionato, come si augurano tutti i tifosi della Roma, rinforzerà la proprietà della famiglia Sensi, che ha fatto tanto per Roma, ma ora dovrà decidere se continuare a investire o meno. Certo, rinforzerebbe, Marco, rinforzerebbe, perché, perché è tutto ancora in alto mare. In ogni caso, la Roma sta giocando questa partita e poi prossimamente avrà quell'altra che rimane comunque sullo sfondo da giocare. Grazie allora Marco Benirazzo. Grazie a voi. Chiudiamo questo collegamento con il sole 24 ore. Sono arrivate due o tre risposte di ascoltatori al parmigiano di prima, che diceva, ma insomma, qual era la contropartita. Allora Guido Lavarese suggerisce: Obbedire significava arbitrare in quel momento e con quella cupola, ed erano pur sempre 5.000 euro a partita, suggerisce Guido da Varese. Io mi limito a leggere quello che scrivete. Roberto da Arezzo scrive: il compenso era la carriera sia per gli arbitri che per i calciatori attraverso la GEA, di cui curiosamente non si è più parlato ultimamente, per ricordare la complessità e l'articolazione della cupola. Tobia da Verona fa notare anche un'altra cosa che io trovo abbastanza significativa, per la verità. La differenza è che l'Inter, ammesso che Facchetti chiedesse Collina, l'Inter voleva in griglia anche Collina, la Juventus mai. Combinazione era il miglior arbitro, scrive Tobia da Verona. Combinazione, posso confermare io. Torniamo con il ripasso della storia affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 15 aprile 1970. Nel ritorno delle semifinali di Coppa delle Fiere, l'Anderlecht gela San Siro, superando per 2-0 l'Inter ed estromettendola così dalla competizione. Dopo il successo di misura ottenuto a Bruxelles grazie a Boninsegna, i nerazzurri, allenati da Heriberto Herrera, si fanno sorprendere due volte dal poco conosciuto attaccante olandese Gerard Bergholz. Nella loro prima finale europea, i belgi non ripeteranno l'impresa. Van Imst e compagni capitoleranno ad Highbury contro l'Arsenal per 3-0, dopo essersi imposti all'andata per 3-1. Torniamo agli amici già collegati. Matteo da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, buongiorno. Intanto le faccio i complimenti per la trasmissione, anche se lei dice sempre che non bisogna farli, comunque sarò velocissimo. Ascolti, riguardo alla chiamata, 2-3 chiamate fa, no, che è stata fatta, che l'Inter non deve essere indagata, comunque che lasciamo correre Calciopoli, no? No, l'Inter deve essere processata come è stata processata la Juventus a suo tempo nel 2006. Deve usarsi lo stesso metro di giudizio, diciamo, e questa è una cosa. E poi vedo un tentativo disperato di insabbiamento, e in maniera particolare dalla Gazzetta dello Sport. Non so lei cosa ne pensa. Grazie. Grazie a lei. Augusto da Ascoli Piceno, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senti, io mi ricordavo anche all'ascoltatore che aveva parlato adesso. Secondo me, quando c'era da colpire la Juve, è stata colpita, e va bene. Però adesso che c'è da colpire qualcun altro, secondo me la giustizia dovrebbe andare avanti, perché siamo passati sopra a Fiori Giussioni, a forse molti falsi, a falsi in bilancio e quant'altro. Tutto qui. Grazie anche a lei, Augusto. La giustizia sportiva andrà avanti. Questo di cui stiamo parlando attualmente mi pare sia un processo penale. In base alle risultanze di questo processo penale verrà probabilmente riaperta, o è possibile in ogni caso che venga riaperto, un processo sportivo. Addirittura se ieri il figlio di Facchetti si è augurato che l'Inter restituisca a prescindere lo scudetto del 2006, quello che secondo me non avrebbe mai dovuto essergli assegnato, ma a maggior ragione non avrebbe mai dovuto essere accettato. Io credo che sarebbe persino un po' troppo comodo restituirlo adesso, l'Inter in ogni caso, per dal canto suo, non ne vuole nemmeno sentire parlare. Insomma, vedremo come si svilupperanno queste cose. Vedremo se dall'esame del... cioè un'eventuale riapertura del processo sportivo, vedremo come calibrerà le responsabilità nuove che stanno emergendo in questa fase rispetto a quelle vecchie, cioè se le riterrà identiche, inferiori, superiori, vedremo. Marco Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. È un piacere partecipare alla sua trasmissione. Senta, io leggevo ultimamente del discorso di Benitez, prossimo allenatore della Juventus. Sì. Indipendentemente dall'investimento, secondo me, io credo che la Juventus abbia più bisogno di un generale di ferro. Secondo me l'allenatore ideale potrebbe essere Felix Magath, più volte criticato dai suoi giocatori come un dittatore, come un generale di ferro. La Juve forse tecnicamente non ha tantissimo da sicuramente la squadra da svecchiare, però ha dei giocatori che secondo me hanno avuto un approccio con degli allenatori caratterialmente deboli, come poteva essere Ciro Ferrara, come lo stesso Zaccheroni, ma è gente che ai tempi di Capello, che era uno dei generali di ferro, hanno comunque garantito delle performance alte. Quindi secondo me la Juve ha bisogno più di un vero e proprio colonnello che sappia gestire i giocatori, più che uno come Benitez, che non credo possa inventarsi tantissimo in questa situazione. Va bene, anche questa è un'opinione. Lei ha parlato di Zaccheroni. Zaccheroni ha in corso attualmente la conferenza stampa di vigilia di Inter Juventus di domani sera, e allora ne sentirei un frammento. Io so solo che devo far punti per agguantare un posto in Champions, e quindi domani presenterò in campo una squadra orientata a questo obiettivo. Poi è chiaro che il confronto con un'altra grande del campionato italiano è sempre stimolante. Chi fa calcio lo fa soprattutto per queste sfide. Sto leggendo che è ancora in alto mare la formazione, un altro, insomma, perché poi Zaccheroni sta continuando a parlare. Le assenze sicure sono quelle di Cáceres, Grigera, Giovinco e Trezeguet, leggero dubbio anche Zebina. Al rientro sia Diego che Sissoko. Tocca ad Alberto da Biella, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzi. Dica. Senta, alla luce del risultato della Coppa Italia primavera, dove il Milan ha vinto con una squadra veramente con dei giovani incredibili, non crede che, visto che il Milan ormai è quasi fuori dai giochi, anche se non matematicamente, non crede che l'inserimento di un paio di giocatori in difesa e a centrocampo non possa far che migliorare i risultati della prima squadra? Avere un po' di coraggio e proporre già da domenica degli inserimenti nuovi, cosa ne dice? No, io direi già da domenica no, perché i ragazzi si bruciano. Cioè, credo che se tutto va regolare, perché poi non si può mica mai escludere niente, ma se tutto va regolare come gli stessi milanisti pensano, questa è una partita o due e il distacco diventa, o comunque i margini di recupero diventano insuperabili, allora sì, a quel punto sì, cioè senza sovraccaricarli di responsabilità, ma dando anche un senso al futuro, no? Di una squadra oggettivamente stravecchia, allora sì, avrebbe un senso provare un paio o comunque non so quanti, ma alcuni di questi ragazzi, per cominciare a testarli per il futuro, per cominciare a vedere come se la possono cavare nel salto di categoria, per dare una rinfrescata all'ambiente, per dare anche un messaggio per l'appunto al pubblico, che non è sempre il Yepes, no? che peraltro un ragazzino rispetto ad altri che sono arrivati, c'è un milanista di là dal vetro che mi sta facendo sghignazzare perché crolla il capo. Cioè, non è sempre soltanto la gerontofilia, la politica della società. Potrebbe anche essere che qualcuno di questi ragazzi così venga presentato, venga inaugurato in vista d'un altro anno. Gianni ha chiamato la Novara, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Volevo ritornare sull'argomento di Calciopoli. Oh, sa che eravamo in pensiero. Ascolti, voglio dire, in questi 4 anni ascolto spesso la sua trasmissione, mi capita di sentire che partecipano dei consulenti, non so, di economia o di medicina. Mi avrebbe fatto piacere magari ascoltare qualche volta magari un giudice sportivo, magari non necessariamente del calcio, della disciplina calcistica, però magari un giudice sportivo di qualche altra disciplina, giusto per capire qual è la logica che determina alcune scelte da parte dei giudici sportivi. Questo lo dico perché secondo me si potrebbe togliere tanta nebbia dalla mente dei tifosi, cioè se si sapesse come ragiona un giudice sportivo, quali sono le dinamiche che lo spingono a fare delle scelte, prendere delle decisioni e sanzionare qualche giocatore o qualche squadra, secondo me tanti tifosi si toglierebbero dei dubbi. Ma può essere, io non cioè, bisogna innanzitutto prima trovare dei giudici e dei giudici che parlino. Io nei giudici che parlano non credo molto, perché ciascuno deve fare la sua parte. Io credo che perlomeno i giudici che io più rispetto sono quelli che non parlano, sono quelli che fanno il loro lavoro e non parlano. Ci sono delle categorie professionali il cui lavoro, insomma, la cui estrinsecazione professionale per l'appunto è la parola. tipo la mia, per esempio, e ci sono altri invece che più tacciono meglio è, ed è giusto che agiscano. Poi, per carità, un giorno o l'altro ci si può anche pensare. Grazie anche del suo intervento. Sbaglio o abbiamo esaurito? Sì, certo che abbiamo esaurito il tempo. Sicché un saluto a Pietro Lacorte in regia, Franco Piantanida in redazione. Un grazie a tutti voi che siete intervenuti e l'appuntamento con il giornale radio.